Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Quando eravamo il futuro? Quando mai lo siamo stati il futuro? Questa è una domanda alla quale sicuramente dovremo rispondere prima o poi. Benvenuti carissimi amici a questa nuova puntata di questo nostro podcast e ci scusiamo se abbiamo saltato alcune settimane, adesso ci arriviamo, ma prima presento i miei compañeros de viaggeros, ossia Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti, mi sentite bene stasera? Molto bene, molto bene, veramente che grande soddisfazione provare nuovi strumenti che poi magari a metà della diretta dicono basta, non funziona più, che ne so, perché di solito succede così, eh? E abbiamo anche Davide Gatti. Eccomi qua, basta non elogiare troppo questi strumenti e vedrete che Murphy ci risparmierà magari. Infatti, infatti, esatto. Allora, diciamo due cose velocissime. Primo è che abbiamo saltato qualche settimana, uno per ragioni organizzative, la seconda settimana l'abbiamo saltata perché era veramente in concomitanza con quello che sapete che sta succedendo nel mondo e magari non ce la siamo sentita di fare i burloni, insomma, in un giorno che poteva essere un po' delicato, diciamo così, da questo punto di vista. Quindi siamo tornati oggi, avremmo dovuto tornare con la puntata di Terence Hill, ma Roberto ha avuto degli impegni di lavoro ieri e oggi e quindi abbiamo rimandato alla prossima settimana e abbiamo recuperato un'altra puntata che era comunque in scaletta ed è quella di questa nuova serie che faremo saltuariamente, che si intitola I Sopravvissuti e in questo specifico caso è Horror Food, ma poi sarà I Sopravvissuti di altre cose, perché noi degli anni 70 e 80 ci possiamo considerare orgogliosamente dei sopravvissuti, questo è una cosa sicura. E vi ricordo inoltre che domani mattina alle 6 esce il nuovo episodio di Archeologia Informatica. Carlo, su che cosa? Sì, esce domani mattina l'Inter, per chi ha avuto la fortuna di ascoltare già la diretta di ieri sera su Runtime Radio, l'ha già sentito, domani mattina uscirà in podcast. Abbiamo avuto l'onore di intervistare Marinacci, che è niente poco di meno che il fondatore di MC Microcomputer, la rivista italiana più, diciamo, iconica per quanto riguarda il personal computer, è storica. Tutti quelli della nostra generazione, della mia, ma anche di una generazione prima e due generazioni dopo, sono cresciuti con questa rivista che parlava di personal computer per la prima volta in Italia. E Marco Marinacci, con la scusa di intervistare Marco Marinacci, abbiamo anche ripercorso quella che è la storia dell'editoria informatica italiana, perché lui è stato praticamente il primo, prima con delle recensioni su Suono, che era una rivista che si occupava di alta fedeltà, e poi con un'altra rivista che si chiamava Micro e Personal Computer, che ha preceduto poi la nascita di MC Microcomputer, a recensire questi nuovi computer a basso costo che iniziavano a diffondersi nelle case, prima di appassionati e poi di bambini, di ragazzi, eccetera, cioè la diffusione personale del personal computer. Chi non ha mai letto MC Microcomputer? Sicuramente, insomma, tra l'altro noi... Mi ricordo anche il logo. Sì, era forse la cosa più brutta della rivista, diciamo. Non diglielo a Marco. No, no, però vabbè, bisogna oggettivamente. Forse allora negli anni 70-80 poteva anche andare bene. Oggi, se ci pensi, veramente sarebbe. Sì, si vede che è della fine degli anni 70, esatto, come stile. Esatto, cioè, quella sfumatura, no? Che era un po' tipo Lucasfilm Games, se vi ricordate, no? Perché pure loro avevano. Sì, cioè, c'era la M, mi sembra c'era la C come Pac-Man. Sì, no? Sì, era, somigliava, sì, a Pac-Man. Sì, sì, brutto, brutto. Vabbè, comunque, e invece brutto. Davide Gatti, che prosegue la sua cavalcata verso la conquista del mondo, inarrestabile, con il suo meraviglioso canale Survival Hacking, che è arrivato quasi a 9.000 iscritti. Sì, è arrivato, sì, cioè, c'è da dire che si sta lavorando molto per cercare di salire, d'altronde, non ci risparmiamo, però. Il successo è il piastrellato di sudore, insomma. Esatto. A 10.000 pizza. Esatto, come minimo. Anzi, pizza con pizzi. Esatto. Come minimo, insomma. Esatto. Bene, bene. Invece, prima di iniziare proprio davvero, per davvero sul serio, ma proprio incontestabilmente, abbiamo, insomma, dobbiamo ringraziare due utenti che ci hanno lasciato dei messaggi. Che insomma ci fanno veramente molto piacere. Carlo, li vuoi leggere tu che sei più bravo a leggere? Io non sono capace a leggere, sapete? Va bene, va bene. Allora ci scrive Francesco Mogliarisi. Francesco Mogliarisi ci scrive: penso di non sbagliare nel dire che siete nel panorama dei podcast i migliori nel proporre trasmissioni di questo livello. Mi fate fare un viaggio nel passato, in quegli anni mitici, anni di bei film e immense compagnie, come cantava Max Pezzali. Siete mitici, non smettete mai. Bene, ma cercheremo di non smettere mai. Grazie. Hai sentito Carlo come ha letto bene, perché sì, c'era la punteggiatura che prima non c'era. No, ma insulta le persone che ti scrivono i messaggi. Bravo, bravo, complimenti. Scherzo. Comunque scherzo. Io continuo a sentire Carlo con l'eco tipo il Papa, però vabbè, facciamo. No, io lo sento benissimo. Invece. Io sento te invece, Simone, con un po' di eco. Con l'eco. Allora, quindi... facciamo così: facciamo una domanda al pubblico e chiediamo se ci sentono bene, esatto, o male. Esatto. Okay. Purtroppo credo che questo strumento lo dovremmo un po' configurare, insomma, diciamo, per quello che possiamo, perché in realtà c'ha solo due bottoni, quindi non so un po'. Però insomma, vabbè, vediamo quello che succede. Poi c'è un altro messaggio. Leggo sempre io. Vai. Allora ci scrive Andrea De Girardis. Questo è un messaggio rivolto a te in particolare, penso. Sì. Allora dice: sto ascoltando l'episodio Ryu il ragazzo delle caverne. In realtà è ambientato nel futuro, in un lontanissimo futuro. Possiedo il manga originale e nel finale lui trova delle astronavi, eccetera, eccetera. Poi dice anche Rocky Joe, cioè Ashita no Joe, Joe del domani, il nome deriva dal ponte che lui dovrebbe ripercorrere al contrario, il ponte che lo porta nei bassi fondi, cosa che non riuscirà mai a fare. Tu lo sapevi questo? Allora, io non lo sapevo, per esempio. Allora Andrea, carissimo Andrea, innanzitutto ti ringrazio per essere uno dei nostri fedeli ascoltatori, ma come ben sanno Simone Pizzi e Davide, io non so niente. Stai precisando al Mister Precisetti. Esatto. Allora, ti spiego una cosa Andrea. Per fare il Precisetti bisogna essere, la prima regola del Precisetti è che deve essere assolutamente certo, oddio, di quello che sta dicendo, oddio, perché sennò incorri in questo che ti sto dicendo, cioè no, purtroppo Ryu il ragazzo delle caverne, sia il manga che l'anime, è ambientato, come dice la canzone, un milione di anni fa, o forse due. E tu mi dici: ma allora perché ci sono le astronavi nel manga che non ci sono nel cartone animato? Perché il manga rispetto al cartone animato hanno una storia leggermente diversa, sempre ambientata nel lontanissimo passato, in un passato inesistente dove c'era una preistoria, dove convivevano umani e dinosauri, no? Come abbiamo già detto, una cosa che ha causato non pochi errori poi nella storia di chi ha visto Ryu il ragazzo delle caverne. Ma mentre nel manga lui era bianco e tutti gli altri erano neri, e la motivazione nel manga era perché in realtà lui era figlio, sua mamma vera, non di la Gesù mamma, Cristo, poi, era. No, era figlio di una razza aliena, degli Atlantidei. Gli Atlantidei arrivavano sulla Terra per, diciamo, conquistarla, e la madre di Ryu abbandonava questo figlio degli Atlantidei in mezzo agli umani per farlo diventare il loro re, il loro dominatore. E questa la storia, poi ripercorre più o meno la stessa trama, perché sia nell'anime che nel manga la storia è che gli muore la madre adottiva, che era questa gorilla, e lui va alla ricerca della sua madre vera. Ma mentre nel manga, come ho detto, lui in realtà era figlio di alieni, quindi alla fine scopre le astronavi eccetera, e che lui era figlio di questi alieni venuti dallo spazio, ed era per questo che aveva la pelle chiara mentre tutti gli altri avevano la pelle scura. Invece nell'anime questo viene completamente tolto, tutti gli elementi fantascientifici, la madre è un'umana normale che ha per caso questo figlio bianco al posto di averlo nero, cioè una mutazione genetica e lui nasce bianco, mm-hmm. ma è una madre umana come tutti gli altri e lui alla fine la trova prigioniera in un villaggio, in un capovillaggio cattivo che la teneva prigioniera, insomma tutta la storia. Vabbè, quindi Andrea, per fare i precisetti, grazie Andrea di averci ascoltato, so che non ci ascolterai più, vabbè, è stato bello negli anni che ci hai ascoltato, insomma, comunque vabbè, dai, comunque iniziamo, no, confronto, dai, tra l'altro salutiamo immediatamente in chat tutte le persone che sono pronte a fare questo piccolo viaggio con noi. Uno è ovviamente Gianluca Mattei che ci scrive: peccato che non ho una collezione di retro schifezze mangerecce da mostrarvi, ma io penso che se tu ce l'avessi penso che non ci sarebbero stati dei problemi, insomma. No, scherzi, guarda che la roba che facevano negli anni 70 era 90% conservanti, 10% roba chimica. Hai ragione. Era ancora lì che i coloranti, esatto. Che resisteva. Buonasera anche a Michela e salutiamo anche a Walter Sbano che ha già usato Clean Feed, che è questo strumento che stiamo utilizzando al posto di Skype, e ci dice che è un problema di Clean Feed, però loro sentono bene, quindi va bene. Se noi sentiamo dei disturbi ce li abbiamo, e continua sempre ad infierire sul nostro ascoltatore. Il manga ce l'avrà pure avuto, ma non l'ho letto. Vabbè, dai, andiamo avanti. Insomma, vai Davide con l'introduzione a questo tema. Ecco, allora, tanto c'è qualcuno che mi chiama su Skype, non so perché. Comunque, l'introduzione sono una serie di situazioni che si trova spesso anche in rete, queste cose che sto raccontando sono 10 punti che ci portano poi a quello che è il focus del nostro episodio di oggi. E cominciamo con un elenco appunto di cose che una volta si facevano e che oggi risulterebbero praticamente illegali, quasi. E diciamo, tipo, da bambino andavamo in auto senza cinture di sicurezza né airbag, eppure siamo sempre qua, no? Le nostre culle erano dipinte a colori vivacissimi con vernici a base di piombo. Non avevamo chiusure di sicurezza per i bambini nelle confezioni dei medicinali, nei bagni, alle prese di corrente. Quando andavamo in bicicletta o motocicletta non portavamo il casco. Bevevamo acqua dal tubo di plastica del giardino invece che dalla bottiglia d'acqua minerale. Vero, che poi era il veleno proprio quello lì. Sì, sì, vero. Ci tagliavamo, si sapeva di terra, mi ricordo, ma si beveva. Annaffiavi le angurie, intanto che annaffiavi le angurie ti la bevevi un po'. Ci tagliavamo, ci rompevamo un osso, perdevamo un dente, nessuno faceva una denuncia per questi incidenti. Condividevamo una bibita in quattro bevendo dalla stessa bottiglia e nessuno moriva per questo. Non avevamo PlayStation, Nintendo, Xbox, televisione via satellite, videoregistratori cellulari, eccetera, eppure avevamo tanti amici. Vabbè, uscivamo, montavamo in bicicletta, camminavamo fino a casa dell'amico, suonavamo il campanello semplicemente per vedere se lui era lì e poteva uscire. Facevamo giochi con i bastoni, palline da tennis, si formavano delle squadre per giocare una partita, non tutti venivano scelti per giocare e gli scartati dopo non subivano un trauma psicologico. E infine mangiavamo cose che oggi sarebbero illegali, eppure siamo sopravvissuti ed eccoci qui a raccontarvi un po' di porcherie che abbiamo trangugiato e ancora siamo qui a raccontarvelo. È proprio così. Io direi che possiamo dare inizio a questa cavalcata, anche se poi, ragazzi, in chat se vi vengono in mente le cose scrivetele, perché noi abbiamo fatto una cosa molto sommaria. Sapete quelle cose che vi vengono in mente ogni volta, ma ti ricordi quelle? Poi dopo, quando devi buttare giù un elenco, non ti viene più in mente niente. Esatto. È incredibile questa cosa. No, tante cose ci venivano in mente durante gli altri episodi, no? Bisognava segnarceli allora, non tanto. E diceva ma questa te la metteremo poi nell'episodio qua. Esatto. Sì, comunque una cosa da dire, cioè che la costante che poi è venuta fuori anche dal documento è che tutti i cibi spazzatura degli anni 70 e 80 fanno capo a due elementi terribili che erano i coloranti e i conservanti, altro che olio di palma, cioè l'olio di palma gli fa un baffo, i coloranti e i conservanti. Ma sai, erano periodi in cui contava più l'aspetto, anzi l'aspetto invitante, colorato attirava moltissimo. No, ma non è, su questo ti correggo, l'aspetto conta ancora tantissimo, in effetti queste nuove regolamentazioni sui cibi e sulle bevande in particolare sono prettamente europee, italiane, eh? Cioè nel senso, se vai in America o vai in Giappone, io ho visto cose rosa fucsia, che quindi non c'erano ancora i coloranti. Ce l'ho presente appunto, bene, cioè che bidoni di zucchero liquido mortale e via dicendo. Però noi abbiamo vissuto poi tutti gli anni 90, perché fine anni 80, inizio anni 90, con senza né coloranti né conservanti, esatto, no? Su tutte le confezioni. Esatto. Invece prima c'erano sia conservanti che coloranti, e ciò nonostante, e non c'erano i controlli, questa è la cosa. Esatto. Quindi non è che c'era. Comunque, parlando appunto di bibitoni, eccetera, una curiosità per chi se lo ricorda, io ve lo ricordo abbastanza bene, la Fanta, la famosa bibita all'aranciata, sì, che tutti ci ricordiamo, negli anni 70 era in bottiglia trasparente ed era arancione, color arancio, no? È vero, era arancionissima. Ed era bottiglia trasparente, invece adesso la bottiglia è arancione e la bibita è più o meno quasi bianchina, giallina chiara. Proprio chiara. Però l'aspetto visivo è sempre su giallo, e quindi una volta ovviamente era colorata e certo, la bevevamo allegramente, e doveva essere arancione, perché un'aranciata bianca non fa schifo, non l'avrebbe bevuta nessuno. Invece oggi diciamo che bypassano il problema colorando la bottiglia. Esatto. Sì. Pensa che questo è successo anche con lo shampoo. Voi ve lo ricordate il Baby Shampoo Johnson? Circa. Il Baby Shampoo Johnson è quello shampoo che è fatto per i bambini soprattutto. Sì. Quello molto delicato, no? Per i bambini. Quello ecco, col vaccino del Baby, no? Shampoo era bianca, trasparente, e il Baby Shampoo era giallo, perché era fatto con gli estratti di camomilla. Sì, okay? Sì, me lo ricordo. E quindi ricordo. C'era già lì. Adesso se lo andate a comprare, il baby shampoo è in colore, è bianco, e la confezione è plastica gialla. Okay. Ovviamente hanno dovuto togliere probabilmente elementi che non si sa cosa c'era dentro. Comunque, tornando alle bibite, io direi che c'è anche da dire il fatto che noi... sì, ok, coloranti, sì, ok, magari dentro elementi che non sapevamo se facevano bene o male, però noi in Italia negli anni 70-80 ce n'avevamo anche poche di bibite, se vi ricordate, no? Cioè c'era la Fanta, la Coca-Cola, la Pepsi, il chinotto, ok, però poi per esempio quando è arrivata, che ne so, la 7-Up, la Sprite, sono tutte innovazioni. Che era sempre gazzose alla fine. Sì, esatto. Però c'è da dire anche che molte bibite a noi non sono mai arrivate, e questo insomma, tutto sommato è stato bene, no? Sì, no, ma noi in Italia siamo stati molto resistenti all'invasione delle schifezze americane, perché per esempio i biscotti Oreo, che nel resto del mondo erano famosi, sì, sono arrivati nel 2010, 2015, non ricordo. Cioè, è vero. Noi i biscotti neri non li avremmo mai mangiati prima. Neri, che cazzo mangio un biscotto nero? C'è anche da dire una cosa, anche se secondo me è un po' cambiato tipo come tipo di colore, però una bevanda che io bevo ancora e che a me piace tantissimo, di quale sono un super fan, ossia la cetrata Tassoni, era gialla fluorescente, se voi vi ricordate bene, e ancora oggi è così, gialla, esatto. Beh, io delle bibite, a parte il crodino che mi piace tantissimo, quello se ne bevi troppo ha delle reazioni strane, per non dire letali, e poi la lemon soda la bevo ancora tanto, e c'era già ai tempi, e c'è la lemon soda, i Loran soda a me piacciono tantissimo, la lemon soda io mi ricordo che all'inizio, però quelle c'erano già dei colori naturali, No, però la lemon soda negli anni 70 aveva dentro come se ci fossero i pezzettini di limone, sentivi lo sfilacciamento del limone e dell'arancio, no? Finto, che, però non lo so se era finto, sicuramente sarà stato finto, esatto, però adesso non c'è più. Invece il bello della lemon soda era proprio per sentire quel che era una spremuta vera, hai capito? Poi era sintetizzata probabilmente, ma non lo sapremo mai. Allora, c'è Andrea Trevisan che ci dice: vabbè, tanto buonasera, Soldino e Succo Billy erano la mia merenda. E il Billy che sponsorizzava la squadra di basket di Milano, esatto, l'Olimpia Basket, tanto che noi la chiamavamo Billy Milano, non perché Olimpia. Si chiamava Billy Milano, si utilizzava lo sponsor apposta del nome sociale, per anni si è chiamata Billy Milano comunque, vabbè, dice praticamente quando non si mangiava pane e burro, ma io sai, mia nonna mi prendeva il pane lo bagnava un pochino, sì, ci metteva il burro e lo zucchero sopra. Sì, anch'io, lo zucchero. Ah, perché se, io se... la chiamavo la Nutella bianca. Esatto, era fantastico. Perché voi vi ricorderete la famosa pubblicità della tipa che salta e si mette a forma di Z al rallentatore, e la pubblicità che diceva il cervello ha bisogno di zucchero. Esatto. E c'era questa campagna che invitava praticamente a far assumere zuccheri ai bambini perché faceva bene al cervello. Poi dopo metà delle persone sono morte di diabete successivamente, e allora hanno detto forse lo zucchero non è che fa proprio così tanto bene, insomma. No, sì, perché c'è stato il periodo della demonizzazione, allora sì, hanno un attimo alleggerito, però forse che non c'è mai troppo un equilibrio poi, insomma. Sì, no. Sì. O tutto o niente. Poi c'è stato gli anni di misura, no? Che quando faceva, esatto, anche lo sponsor, esatto, dell'Inter, la misura, misura, è vero, perché c'è con tutto dietetico, qualunque cosa era dietetica, erano delle porcherie pazzesche, me le ricordo, perché poi ero obeso e cercavo magari di mangiare queste cose senza zucchero, ma le prime cose senza zucchero erano veramente orrende. Vabbè, sì, vabbè, i biscotti misura adesso, sì, esiste, vabbè, ancora, ma sono più, sì, sì, beh, però ancora i biscotti misura c'erano anche quando ero ragazzino io, appunto, io, no, appunto, no, parlavamo, sì, sì, appunto, dell'epoca, no, scusa, sono distratto perché giustamente Lilith ha messo poi la pubblicità del succo Billy dicendo che lei era troppo giovane per averla conosciuta, e poi sopra sopra Gianluca ha messo una pubblicità di una cosa che io non conosco. Ah, neanch'io, la cioccolata Cofflerette. Allora, le ho viste. La Nutella a fette, crema, sì, cioccolata. Ah, crema cioccolata. È uguale alle sottilette, ma fatte di ah, cioccolata. Sì, sì, di sì, sì, sì, sì, di Nutella. Sì, me sì, ricordo, sì, me sì, mo me la ricordo, sì, è vero, è vero. Evidentemente facevano così schifo. Facevano schifo, sì, facevano schifo, sì, sì, facevano schifo. Perché le abbiamo fatte tempo a vedere. Gianluca dice, la tizia che si metteva Z era quella del rabarbaro zucca, era un'altra, c'erano due pubblicità diverse di una tizia che si metteva zucca. Allora vabbè, può essere quella che diceva Simone saltava quella che diceva rabarbaro, esatto, zucca era già fissa così nella pubblicità, era, esatto, la cinese, sì, del rabarbaro zucca, sì, sì, sì, eccola, esatto, lì è arrivata la foto, va bene. Sempre parlando di bibitoni strani, io per almeno 10 anni a casa mia l'acqua minerale, che chiamavamo minerale per dire acqua gasata, era l'acqua del rubinetto con infilata dentro una bustina magica di cocaina. No, ma quella c'è ancora oggi uguale, l'idrolitina, non è, sì, l'idrolitina, sì, la trovi ancora, su io su quello, ancora su quello stessa, sono stato... confezione uguale con stesso logo con la scritta idrolitina gialla, certo, scritta uguale. Devo ancora provarla uguale a prendere per ricordarmi sto gusto, ce l'ho che qua. Che ho dimenticato. Ogni tanto la prendo perché io devo dire che su questo sono stato fortunato, perché da noi non si beveva bevande gassate, io non l'ho mai apprezzata in generale, e comunque l'acqua frizzante per me era inconcepibile, perché l'acqua è l'acqua, no? E però c'erano tantissime famiglie, e conoscevo io anche gli amici, che sembrava che non si campava se non mettevano sta cazzo di polverina dentro le bottiglie, che poi dovevi fare attenzione perché se lo facevi nelle bottiglie di plastica e ce ne mettevi troppa c'era il rischio proprio che faceva il botto, insomma, perché... E poi comunque alla fine il gusto era comunque di un'acqua semisgasata, cioè non era proprio l'acqua, sì, non era uguale, e sapeva anche un retrogusto strano di salatino, salatino, esatto, sì, perché in realtà è fatto da sale e acido fosforico, che sono due sali alla fine, insomma, il sapore, boh, vabbè, comunque da noi ha circolato tantissimo ed era normalissimo aprire una bottiglia, riempirla, metterci dentro il coso, metterla nel frigo, e era l'acqua minerale, che chiamavamo minerale, poi l'acqua minerale ovviamente è l'acqua che viene dalla fonte, non perché c'è dentro sta roba qua. Sì. Salutiamo anche Nicola Piccirillo e dice sì, l'idrolitina, sì, sì, era l'idrolitina, sì, ma la frizzina, la frizzina. Poi ne avranno fatte tante altre, quando erano molto diffuse penso che ce ne fossero state tanti tipi, adesso è sopravvissuto solo il marchio più famoso, che non so come faccia a campare, comunque vabbè. Beh, rispondendo anche a Walter, l'idrolitina, che però non so se la composizione è la stessa, è rimasta uguale, in effetti dubito anche io, perché se andiamo a vedere tantissime cose che sono sopravvissute, anche sono ancora in commercio oggi, sono diverse, poi parleremo di un prodotto dopo, perché vabbè, non dire che lo anticipo adesso, insomma. E vai, vai Walter, scusa. Walter, no. Walter, no. Scusa, Davide. Walter, Davide, scusa, abbiate pazienza. Beh, la settimana impegnativa. Parla appunto, esatto, parla appunto di uno di questi coloranti. Io non so se voi avete vissuto questo momento, questo... Sì, me lo ricordo, ero piccolo, però ve lo ero ricordo. Ero piccolo anch'io, un po' meno piccolo, perché dopo sono un po' più grande di voi, come sempre. e che era uscita questa campagna demonizzante per questo colorante che si chiamava E125, che era un rosso che viene utilizzato praticamente dappertutto, perché poi con poco E125 e magari un po' di giallo facevi il giallo della Fanta, facevi il rosso della, l'arancione della Fanta, no? Certo. E dovevi fare il rosso dello Smarties, l'E125 era pieno, però c'era anche il rabarbaro zucca, probabilmente dentro c'aveva l'E125 per fare il rosso, sì, Bordeaux, sì, che era. Sì. Era dappertutto. Ve lo ricordate il film, quello di Renato Bozzetto, che lui lavora dentro la fabbrica dei vernici, no? E che a un certo punto, quando va a protestare dal direttore, lui si dà le botte sul petto e sputa, sì, giallo Pantone numero. Sì, lo ricordo, adesso me lo fai presente, me lo ricordo. Questo però lo dovremmo tirare fuori per un'altra puntata di Siamo Sopravvissuti. Esatto, esatto, bravo, esatto. No, però mi è venuto in mente perché il discorso dei coloranti è stato un discorso importante in generale, perché tutti i cibi, ma in realtà in alcune realtà è ancora così, però diciamo che tutti i cibi erano abbelliti, diciamo, da quel punto di vista, perché la cosa ti doveva proprio attirare, no? Ti doveva attirare proprio l'attenzione. Più era fosforescente una cosa, e poi se tu col senno del poi ci andavi a pensare, ma più fosforescente è, più doveva essere velenosa, insomma, tutto. Esatto. Però sì, con questo colorante a un certo punto, è verità o non si sa ancora bene, è saltato fuori che ha fatto un grande rumore, risultava cancerogeno, per cui questo colorante non, ma guarda, fare, un po', bisogna fare molta attenzione che negli ingredienti non ci fosse sto E125. Io ho passato veramente periodi molto lunghi a guardare tutto quello che compravo se avesse dentro sto E125, che poi è stato sostituito dall'E123, che è un colorante, sarà un rosso leggermente diverso, non sarà cancerogeno assolutamente. Ma guarda, io ho comprato i coloranti alimentari, anche quelli che colorano tanto, cioè nel senso vanno usati sempre in una certa maniera, e ovviamente oggi non sono quel tipo di coloranti lì, però una volta tu vuoi fare un panino sfizioso, tipo il panino arcobaleno, no? E alla fine comunque in qualche maniera, cioè, nel senso, sono prodotti particolari, sono fatti specificatamente ovviamente per la questione alimentare e sicuramente sono a prova di tante cose, però chiaramente è sempre una roba chimica che butti dentro al corpo. Io in questo vorrei chiedere anche l'assistenza delle persone che magari ci stanno ascoltando, perché l'ho già raccontato, non ricordo dove, forse proprio qui in Quando Eravamo Futuro, ma c'era un medicinale per le infezioni urinarie quando ero ragazzino io, che era blu, e che l'elemento blu era un elemento fondamentale, perché praticamente tu per due giorni facevi la pipì verde, praticamente blu verde, e questa cosa aiutava a capire se il medicinale era andato in circolo dai reni alle vie urinarie, ed era la parte disinfettante. Quando spariva il colorante, quindi quando tornavi a fare la pipì del colore giusto, vuol dire che il medicinale aveva fatto la sua pulizia da quel punto di vista. Poi questa cosa è stata eliminata, chiaramente, perché tutta sta monnezza, sti coloranti rimanevano sul gruppone sui reni per, esatto, non si sa quanto tempo, insomma. Quindi, cioè, ti curavano roba e morivi per un'altra. Esatto. E un'altra cosa erano le carni, quelle che costavano di meno, che non si sapeva la provenienza. Infatti vedete che poi dopo negli anni è nata la cosa del controllo della provenienza della carne, quindi sì, le carni, sì, con i super estrogenoni super pompatissime, no? che noi ci siamo mangiati, infatti. Sì, io mi ricordo da piccolo delle bistecche che le andavi a comprare, anche adesso si rimpiccioliscono, ma mi ricordo mia mamma diceva, ma ho preso mezzo chilo di carne, è diventata 200 esatto, grammi, esatto, si restringevano, esatto, in padella. E a 13 anni c'erano le zinne, ragazzi, insomma, diciamo, ce la vediamo. Poi alla fine c'erano generazioni dei ragazzini che hanno conosciuto precocemente. Ah, tu vuoi dire che quelle che ho qua è per quello, quindi? Esatto, beh, diciamo che può avere il suo, insomma. Vai Davide. Comunque sul colorante dicevo che col famoso rosso poi circolavano anche voci che dicevano che certi coloranti erano fatti con le coccinelle grattugiate, qualcosa del genere. Quelle sono leggende urbane. Quelle facevano, sì, prima a farle chimicamente, guarda. Esatto. Esatto. Salutiamo anche Pier Grippa che ci saluta, buonasera a tutti. Vai. Mentre invece questo io me lo ricordo bene, non so voi, però oggi siamo molto abituati, almeno io sono molto abituato a mangiare i salumi confezionati nel blister, sì, in atmosfera controllata, è normale ed è rarissimo che vado a prenderlo da salumiere affettato lì in diretta, ci vado pochissime volte, no? Anche perché il salume o lo prendi e lo mangi, se lo prendi così da salumiere, ma se lo prendi per mangiarlo non sai quando, è meglio prenderlo confezionato. Ma nei nostri periodi c'era il salume confezionato, che era una, praticamente una mosca una mosca una bianca, rarità. Sì, una rarità, perché era solo per questione di pura emergenza totale, no? Cioè il pane, il salumiere era chiuso, aveva finito il prosciutto, tipo guerra atomica, no? Sì, allora ti prendi, dovevi per forza fare lo sformato con dentro il prosciutto, che se non c'era, vabbè. Allora esistevano queste buste di salumi per emergenze, che si trovavano anche agli autogrill, mi ricordo, che però a differenza dell'atmosfera controllata erano dentro in una sorta di liquame strano, quando tu lo tiravi fuori il salume era tutto bagnato e aveva un sapore acidino, salatino, brutto, sì, allora, alcol sembrava. Ma sì, era conservante di non so che polimortali, non so cosa cazzo e anche fossero. Polimortacci volevo. Esatto, non so cosa fossero. E niente, quindi io mi ricordo di questi salumi che però si mangiavano e nonostante tutto, appunto, tutto sommato facevano magari schifo, ma non siamo morti, ecco. Beh, vabbè, ma quello non vuol dire niente, perché pure non siamo sopravvissuti pure all'Eternit, però cioè, non significava che era giusto farlo, insomma. Esatto. Comunque, quelli erano veramente una porcheria assurda, proprio, me li ricordo proprio brutti. Al trattamento del cibo adesso. Sì, sì. Esatto, e poi vabbè, adesso sempre in quegli anni, negli anni 70, negli anni 60 anche, vabbè, ancora più torniamo indietro, più questo fenomeno era ovviamente più visibile, quando andavamo dal panettiere, dal salumiere, in tutti qualsiasi posto dove ci servivano del cibo, che sia pane, che siano salumi, che siano carne, pesce, si prendevano con le mani, si incartavano spesso in carta di giornale. No, infatti questa cosa, le condizioni igieniche non erano quelle di oggi, cioè non erano neanche immaginabili tutto sommato, e non ci facevamo neanche tanto caso. Però se tu pensi tanto quanto il pane, ma tu immagina il pesce incartato nel foglio del giornale del giorno prima. Su questo c'ho un aneddoto che forse l'ho già detto. Mi sa che l'hai detto, però lo racconti, cioè, comunque carino. Quando uguale. Io avevo 15 anni, quindi era l'85, mi spedirono a fare scuola estiva in Inghilterra, imparare l'inglese praticamente. E lì in Inghilterra si mangiava da schifo all'epoca. Anche adesso molto meglio dell'85 era, perché diciamo oggi c'è più scelta, questo. Esatto. E l'unica cosa decente che potevi trovare era uno street food che facevano molto famoso in Inghilterra, che è fish and chips. Eh beh, che lo fanno tutto sulla costa, no? Cioè, ti facevano patatine e pesce fritto. Io ci vado matto per fish and chips. Il fish and chips mi ricordo che lo compravi in questi banchetti che andavano in giro per vicino alla costa o vicino al porto in Inghilterra. E io ero a Eastbourne, che è una località sul mare, praticamente sulla Manica, e te lo davano nei cartocci di sì, carta di giornale. Sì, cioè, vabbè, ma anche da noi le caldaroste, uguale. Esatto. Però il fish and chips era fritto, pesce fritto, sì. E quindi quando te lo mettevano nella carta di giornale, del giornale tipo il Times, cioè di quei giornali lì di quotidiani, col piombo proprio, se mangiavi il piombo, fuori le patatine e i pezzi di pesce fritto con i caratteri che gli venivano impressi. Imparavi il giornale, imparavi l'inglese. Esatto. In quel modo, beh, difatti se devi andare a parlare l'inglese, imparare l'inglese meglio di così. Ogni cosa che facevi, io l'inglese me lo mangio. Esatto. Vabbè, ma in realtà pure da noi le olive, vi ricordate anche che cose, i fritti di pesce, sì, al mercato, nei mercati si incartava così. La carta più economica che c'era, e il giornale del giorno prima e comunque lì tutto il piombo dello stampato andava a finire nell'alimento, quindi anche lì, insomma, e si attaccava proprio veramente. Comunque a ripensarci, cazzo ragazzi, siamo veramente sopravvissuti, cioè, se ci pensi, insomma, secondo me è stata proprio la selezione naturale, non è che altri li abbiamo lasciati per strada nel frattempo, insomma. Poi questo l'avevamo già citato quando abbiamo parlato dei giocattoli, no? Che però lo recitiamo perché appunto è in focus. Una volta circolava il famoso dolce forno, che era un giocattolo Mattel, con il quale si facevano delle robe che preparavamo con delle bustine, con delle qualsiasi cosa, ficcavamo dentro sto coso, lo facevamo cuocere e ce lo mangiavamo. E le condizioni igieniche immagino che fossero molto molto molto scarse, soprattutto che eravamo bambini che come minimo avevamo le mani che erano nere. Vabbè, minimo, vabbè, però quello già rientra un po' nella naturalezza delle cose, perché poi ricordiamo che il dolce forno cuoceva con la lampadina. Sì, esatto. con la forza 100 watt. Cioè, mi sono sempre domandato, ma veramente cuoceva quel coso? Ma sì, il calore lo faceva, sicuramente. Beh, le lampadine fanno, se vi ricordi una volta, scottavano, non quelle di adesso, sì, quella incandescenza, tanto, comunque, sì, io mi ricordo che si preparavano delle robe, io non le ho mai mangiate, non avevo il coraggio, cioè, queste cose ti mettono dentro delle polverine, delle robe, poi strocchiano tutto con le mani, ficcano dentro, filano dentro nel forno, esce fuori, ah, mangiamo sta roba. E nel frattempo anche una grattatina di culo, che non si esatto, sa. Ma anche no, però diciamo che per anni è stato il giocattolo desiderato di tutte le bambine, credo, ma è stato molto diffuso e ha fatto mangiare un sacco di cose strane che non sapremo mai, perché poi c'erano combinazioni di robe colorate, scioglievano dentro pupazzetti colorati, robe, si mangiava tutto. C'è Gianluca che ci domanda, vi ricordate la cioccolata al taglio che venivano vendute nei negozi alimentari, quella bicolore? Sì, tipo il cremino, però il cremone gigantesco che veniva tagliato a pezzi. Anche quella la incartavano con quello che capitava. Era Harbert, non Mattel, del dolce forno, è vero, era l'Harbert che è sparita, ecco, che l'ho cancellata dalla memoria, in effetti. Infatti ti stanno insultando, Carlo, dicono. Lo cazzo, sono vecchio, ogni tanto perdo la memoria. Io qua, se fossi... Il precisetto però deve essere la regola, se fossi Andrea De Girardis scriverei, infatti, Carlo era Albert, cazzo. Ma la regola del precisetto infatti dice quando correggi devi essere sicuro, non quando dici. Ho capito, vabbè, questo più che la regola del precisetti è la regola del paraculo, diciamo. De Carlo, il precisetti cos'è secondo te? Comunque no, è vero, bisogna essere sicuri quando vai a correggere, mica quando parli puoi sbagliare, sbagliano tutti quando parlano, però se tu dici no, non era così, era quell'altro, se loro mi correggevano adesso e dicevano no, era della Ferrari, è ovvio che facevano la figuraccia, che sbagliavano, giusto? Va bene, dai. Comunque Virgì, sì, cioè nel senso tutto questo serviva per rinforzare il sistema immunitario di chi sopravviveva, chiaramente. Certo, chi superava queste prove esatto, c'era un sistema immunitario coi controcoglioni, come dicono in Francia, insomma. Poi tornando negli ingredienti, nei prodotti che esistono ancora, comunque ho scoperto. Sì, a me piacciono anche, io ogni tanto compro. Però diciamo c'è stato il loro periodo di grande popolarità, era famosissimo, mentre invece adesso esiste ma è molto di nicchia. Cioè, sì, forse non tutti lo conoscono, infatti. Esatto. Comunque esisteva una roba che vendevano a tubetti, come un tubetto del dentifricio, ecco, per dirvi. Più grosso, dove usciva un intruglio, cioè un macinato di tonno. Una crema, era una crema di tonno, di carne, di prosciutto, tonno e ketchup, insomma, tu lo spremevi, lo ficcavi sul panino, lo spalmavi, e ti mangiavi lo spalmì o lo spuntì anche, esatto, che poi come si dice, io ancora Elio ha fatto Spalmen, che esatto. Ci ricorda Spalmen. Che quello era un altro tipo di crema, però esatto. Ma che lui ha fatto la sintesi lui di quello che era quella roba che stava a mangiare. Ma guarda, a me piaceva e mi piace ancora, devo dire la verità, cioè poi chiaramente sì, come dici te, c'avevi ragione, cioè no. Cioè chissà che intruglio c'è dentro, comunque pensiamo che sia tonno. Sì, era emulsione, vabbè, di tonno mischiata a qualcosa. Ma questo lo potremmo dire anche per le scatolette di tonno, allora. Sì, certo. Sì. No, allora, diciamo che le scatolette di tonno hanno ancora una forma, secondo me gli spalmie, quelle robe lì. Che forma c'hanno? È un cilindro, può essere qualsiasi cosa. No, cilindro, cioè. Ok, però una volta che tiri fuori il tonno dal cilindro ha una sua consistenza. Quando tu hai quando fai le scatolette, che già di per sé sono una roba mezza, non dico chimica, ma no, quello che avanza perché non è entrato nel cerchio è lo scarto. Nello scarto cosa ci facciamo? Ci facciamo lo spalmì. Sì, capace anche, senza dubbio, ma non è che... Però io ho detto, non... Capisco, però voglio dire, come abbiamo fatto le creme, i patè, no? Il patè d'olive, il patè di cacciagione, è la stessa cosa alla fine, se vai a vedere. Sicuramente era più economico, sicuramente era più chimico, ma voglio dire... Esatto, questo è un prodotto industriale, adesso io onestamente non so cosa ci fosse dentro, però ho sempre avuto quell'impressione di una cosa abbastanza artificiosa, ecco. però andiamo avanti. Sempre parlando di tubetti, c'è stato un periodo in cui circolavano dei tubetti, non so se per quale motivo circolassero, se, a dire la verità, tipo quello del latte condensato. Il latte condensato a mo' di tubetto era un affare che se tu lo spremevi dentro dell'acqua veniva fuori il latte, fondamentalmente. Però veniva utilizzato... Tu parli del latte condensato o il latte liofilizzato? No, il latte condensato era una specie di... Sembrava proprio dentifricio a vista, bianco, molto denso, che serviva per far produrre del latte nel momento in cui ne avevi bisogno, senza, diciamo, era lunghissima conservazione. Probabilmente era più una roba degli anni 60, secondo me. Però era zuccheratissimo ed era, cioè, tu lo succhiavi, era buono, sembrava le galatine come le caramelle. Ah sì, è capito, sì. Però che te lo spremevi in bocca e sapeva fondamentalmente come una galatina, cioè molto dolce con questo sapore di latte lì. E anche questo, vabbè, onestamente... Questi io non li conosco, devo dire la verità, uso il latte condensato a livello di cucina, quindi Carlo, però se digiti col martello... Scusa. Scusate, ragazzi. E sempre di quei prodotti lì, questo lo aggiunge Carlo, e mi ricorda che esisteva anche, ovviamente, ma esiste ancora, il pomodoro super concentrato. Quello sì. Ancora esiste, però... Sì, sì, esiste e viene usato. Quella è roba che viene utilizzata in cucina, perché comunque tanto, serve sì, per... Sì. Ok, comunque... Ma giustamente non è una schifezza. No, infatti, ma neanche il latte condensato che si usa in cucina è una schifezza, alla fine è panna, cioè nel senso viene utilizzato, chiaramente i prodotti super concentrati servono per arricchire determinati piatti, ma questo poi entreremo in un altro discorso. Pirgi ci dice giustamente, se tu ricordi lo Spalmì e lo Spunti devi ricordare anche il formaggino mio Tiger, sì, in vernizzi, perché pure i formaggini, cioè alla fine che cazzo erano, cioè cosa sono ancora, perché cosa sono ancora, esatto, sì, però allora secondo me cosa erano ancora peggio dei quattro, sì, so, sì, adesso, probabilmente, insomma, sì, no? Allora oggi se li vai a vedere probabilmente c'è del formaggio dentro però il resto non lo so, cioè addensanti, nebulizzanti, globalizzanti, eccetera. Mentre all'epoca era veramente una roba chimica con il sapore di anche formaggio. Lì secondo me scarti, sottoscarti, sì, esatto. Ovviamente con quello venivano fuori grazie appunto agli scarti, come anche le mozzarelle che voi andate a comprare a forma cubica per mettere dentro nella pizza, e quella di mozzarella c'è solamente il nome scritto sulla confezione, che e alla fine viene un cubetto. No, beh, quelle di adesso sono abbastanza controllate, sono mozzarelle disidratate, cioè senza, sì, sono dei cubi che però che se le mangi va bene da mettere sulla pizza, ma se tu la mangiassi la senti il sapore, no ma è fatta apposta per essere fusa sulla pizza. Allora, questa non l'ho vista mai, veramente, devo dire la verità. Gianluca dice un vago ricordo della Fiesta Grande con le ciliegie, sì, sulle, qualcosa ricorda, io ho mai vista proprio questa. Sulla Fiesta ne abbiamo già parlato molte volte, sì. A parte questa fiestona gigante che avrà avuto una sua brita breve, ma la Fiesta, se vi ricordate, esisteva in tre gusti, e sì, noi l'abbiamo sempre vista invece questa arancione all'arancia, basta, sì, ma invece è esistita anche alla mandorla, è esistita anche al curaçao ed era confezione verde, blu e gialla. Ah, sì? C'erano tre tipi diversi. Figo. E ti diceva Fiesta ti tenta tre volte tanto, ma non perché, sì, non perché te ne mangiavi tre, ma perché c'erano tre gusti differenti. E invece poi alla fine ha resistito solo quella all'arancia, diciamo. E poi vabbè, il fiestone, quello lì, che poi è una torta a forma di Fiesta, penso che abbia avuto una vita molto breve, perché me la ricordo, ma non penso di averne mai comprata una. Vabbè, poi Walter fa riferimento a una cosa che diciamo dopo, quindi magari poi dopo ci ritorniamo. Sì, sì, sì. Tanto andiamo avanti. Simone, parlane tu delle gomme da masticare, visto che hai fatto tu il commento più interessante. Allora, qual è le gomme da masticare? È quella che avevi evidenziato. Allora, le gomme da masticare. Ah, sì, sì, sì. Allora, c'erano queste gomme da masticare che praticamente vivevano, perché qui non si tratta di essere o di essere distribuite, ma di vivere una loro vita all'interno di questi distributori. Voi vi ricordate? Erano quelle gomme a forma di pallina colorate, molto colorate. Tu mettevi le 100 lire o le 50 lire, giravi la manovella, che poi ogni tanto si incastrava pure, crack, bestemmiare. E questa pallina che scendeva praticamente in uno scivolo di metallo, che immaginate l'igiene, ragazzi, di tutto questo. E tu prendevi questa pallina che era sì colorata, molto colorata, ma se tu la tiravi sul, nell'occhio al tuo amico gli facevi anche male, perché erano tipo cerate, erano, e poi quando tu le masticavi e rompevi il guscio, dentro c'era ovviamente la gomma morbida, e che veramente le condizioni igieniche nelle quali queste stavano lì, perché giustamente stavano dentro sti, sti distributori, ricordiamo, non erano incartate, non erano incartate, chiaramente erano, erano libere, erano, erano dentro questi, questi distributori che non erano sicuramente ermetici, che ci poteva entrare veramente di tutto, e stavano lì col caldo, col freddo, le estati, gli inverni, perché poi giustamente duravano tanto, nei depositi, e poi mezzo alla strada, fuori, anche, mettici, anche mettici il tizio che per fare il dispetto pisciava nel nel vassoietto dove usciva la caramella, e insomma ragazzi, veramente lì, lì veramente abbiamo rischiato, penso. Eppure io... quando usciva questa cicca tu subito te la infilavi in bocca, il primo sgranocchiamento era un mattone e poi ti rompevi un dente, poi sì, perché era tipo cerata, era una cosa incredibile, era come se ci fosse uno strato di cera intorno, che però ovviamente c'era di plastica o di plutonio, come dice, esatto, era di plutonio, perché duravano decenni e poi tu la mangiavi e sapeva poi la solita cicca, no? Però come ha vissuto quella cicca nei suoi 10 anni dentro quel distributore, non lo so. Sì, sì, quella è una brutta storia, ragazzi, cioè, nel senso, se vai a vedere, comunque mo al di là noi ci scherziamo, perché in realtà esistono ancora, e questa è la cosa bella, però oggi, se non sbaglio, stanno dentro una pallina di plastica, cioè nel senso, come l'ovetto Kinder, esatto, assomiglia al conigliettino di Torino dell'ovetto Kinder. Oggi sarebbe assolutamente improponibile una cosa del genere, però se noi oppure sono confezionate singolarmente in bustine di plastica, in bustine, che poi dopo apri e mangi, invece no, veramente lì non c'era neanche il minimo criterio, perché tu dicevo, cazzarola, cioè fammi mettere un po' lo scrupolo di non far prendere la leptospirosi ai bambini, capito? Cioè, c'erano anche le noccioline, tutte queste robe, buttateli dentro e tu te le tiravi, prendevi. Un ascoltatore ha appena pubblicato una foto, che è il nostro successivo punto, no? Che vabbè, questa non è proprio una porcheria, era solo magari culturalmente una porcheria, perché le sigarette a forma di cicca... che è quella che ha pubblicato. Attenzione, la foto. Attenzione, scusa, ti interrompo, perché Piergi ci dice che la madre lavorava alla Invernizzi e quindi dice che nel formaggino ci buttavano ogni altro taglio e scarto di tutte le altre preparazioni. Vedi, questa dei formaggini mio? Quelli... No, della Invernizzi, sì, Invernizzi che faceva. Sì, mio. Formaggini mio. Ah no, scusa, qui dice i formaggini mio li mangerei ancora. Ma io i formaggini mi piacevano, cioè li metto ancora oggi ogni tanto, quando proprio vogliamo fare il minor dannoso comfort food, io e mia moglie ci facciamo il brodo di carne con i quadrucci e dentro con il formaggino sciolto, cioè ragazzi, ancora è veramente ritorni bambino per una sera, insomma. Comunque niente, queste sigarette, le gomme a forma di sigarette erano cicche, gomme normali, niente di che, però era questa cosa di avere il bambino che doveva avere il pacchetto di sigarette con la sigaretta a forma di cicca, ma in realtà lo scopo di questo qua non era tanto la cicca che era uguale a tutte le altre, ma era la figaggine di avere il pacchetto di sigarette per dare già subito questa sensazione ai bambini di sentirsi più grande se fumavi, hai capito? Beh, questo in effetti devo dire che erano fighe le sigarette, che... cioè nel senso le gomme a forma di sigaretta, perché ti davano quella sensazione di fare una, che tu te la tenevi in bocca, un po' ci giocavi, poi però durava poco perché il desiderio di ciancicarla poi alla fine aveva il sopravvento. Però io mi ricordo anche le caramelle, non le caramelle, scusate, erano i zuccherini a forma di gesso, vi ricordate? A forma di gessetti della lavagna, che erano tutti zuccherini colorati, che erano esattamente identici ai gessetti, che infatti se tu non lo sapevi provavi a scriverci, invece non ce lo scrivevi, devi mangiare, e anche lì l'igiene a go-go proprio, e mi ricordo che queste robe di solito ce le avevano le suore. Ricordo che quando c'erano le suore, tu andavi dalle suore e ti regalavano sti cose. E i gessetti che schifo, poi erano della stessa famiglia, c'erano quelle specie di pastigliette piccoline, tutte colorate, azzurre, verdi, gialle, blu, che erano tutte sempre di zucchero, erano goccioline di zucchero colorato, che facevano una specie di non mi viene, sembravano delle piccole pastigliette rotonde, vabbè. Comunque, parlando sempre di igiene, di sopravvissuti, eccetera, ne abbiamo parlato forse nell'episodio precedente, quando si andava all'oratorio da piccoli, che mi dai due di quelle liquirizie, due di quelli, c'erano sti cassettoni quasi al pubblico, pieni di ogni caramella, noccioline, lupini, tutte le cose che ti prendevi, ti venivano date dal tizio, però erano lì open, cioè la gente parlava, voglio queste, toccavano anche magari, no, voglio questo, quello. E quindi sai, questa cosa del toccare, diciamo che in alcuni ambiti ancora un po' sopravvive. Poi ovviamente oggi magari c'è più controllo, dice signora che fa, perché scusi, se tocca compra, no? Perché adesso c'era l'abitudine di tastare le verdure, ad esempio, no? Tu con le manacce tastavi le verdure, poi non la prendevi e quella rimaneva là, prima o poi se la comprava qualcuno, e poi insomma non è bello, no? Diciamo. Comunque, vabbè, cassetti sono stati poco diffusi, o forse erano più diffusi, immaginavo le mentine, quelle robe lì che le suore davano, le mentine a noi, che non le voleva mai nessuno, perché la roba, la menta, era sempre una roba che, come le caramelle al rabarbaro o le caramelle alla menta, erano sempre le meno gettonate. Cioè Piergi dice che la famiglia Invernizzi vive ancora nel suo paese, allora sai che facciamo? Facciamo un sit-in sotto e gli schiamo assassini. No, oppure loro dicono, ma che cacchio volete da noi? Vedete che siete belli in forma adesso? Esatto, è tutto grazie a noi. Esatto, che vi abbiamo inoculato di quelle robe. Ah no, però aspetta, che dice Sbano che mio era Locatelli. Locatelli fa le cose per bene, adesso Nestlé. Vabbè, secondo me cambiava il nome, ma la tecnica produttiva era la stessa. Ma sì, sì, io penso che alla fine la roba... Poi ricordo un'altra cosa che abbiamo già detto forse di recente, se non sbaglio, in qualche episodio, sì, quando abbiamo parlato della scuola. Uh-huh. Ci ricordiamo, e lo ricordiamo in questo episodio perché appunto è anche lui in focus, del fatto che i bidelli una volta erano gli spacciatori di cibarie alla scuola, no? Quando noi andavamo all'elementare, alle medie, c'erano i bidelli che vendevano i panini, le focacce, che se li facevano loro a casa, ti riportavano a scuola, sì, sì. Facendoli a casa. Non c'erano tutte queste formalità, diciamo, una volta. Cioè. Non si sa come, a parte dal punto di vista fiscale, ma quello lasciamo stare, ma a livello igienico, lì qui è tutto un mistero. Magari alla peggio, levate, insomma. Esatto, comunque era un panino con dentro il salame o la mortadella, e va bene, però ma... ricordiamolo e basta. No, è vero, perché cioè nel senso, no, alla fine non che necessariamente ci fosse niente di male in sé, che proprio oggi non sarebbe proprio proponibile una cosa del genere, senza controlli, senza comunque sì, sarebbe illegale. Assolutamente illegale, esatto, insomma, quindi però una volta si faceva, e tutto sommato alla fine era anche meglio, se tu ci vai a pensare, perché era comunque il panino del salame fatto comunque in casa da qualcuno che comunque magari lo faceva con attenzione, tutto sommato, poi magari ci sputava dentro, ma questo in generale non lo possiamo sapere, insomma. Lo potrebbero fare anche quelli che confezionano i panini che compriamo al supermercato. Assolutamente sì, no, infatti impacchettati. Assolutamente sì. Che noi pensiamo che li faccia una macchina, magari, ma in realtà magari non li fa una macchina. E parlando poi di gelati, comunque sì. Le Ziguli, Piergi, esistono ancora, e io sì. Quando ero ragazzino ci andavo matto, perché fingevo di prendere le medicine, perché chiaramente, se voi vi ricordate, erano negli stick, quelli là tipici delle pastiglie, sì, vendevano vendute in farmacia e basta, e vengono vendute ancora in farmacia e basta. Allora, buonissime le pezze. Io però queste pezze non... Io le pezze me le ricordo, sono quelle dentro quelle specie di contenitorini di plastica, sono caramelle rettangolari che venivano tutte messe in file, c'era un distributore, una specie di sì. Giocattolo, che tu gli giravi la testa sopra, tipo l'accendino circa, gli giravi la testa e usciva una caramella. È una specie di distributorino. Mi sentite perché ho avuto un paio di problemi con il microfono internet. Mi sentite di nuovo voi? Sì. Ti sentiamo. Okay, sì. Perfetto. Sì, lo stavo dicendo, le pezze me le ricordo anch'io, però non le trovavo in Italia. Mi ricordo che con mio nonno andavamo a comprarle in Svizzera, a Ponte Tresa, quando andavo in montagna, che si attraversava il confine, e mi ricordo le pezze, queste appunto caramelle, che erano in questi giocattoli con la testa dei personaggi della Disney. Esatto. C'era quella di Paperino, di Topolino, sparare le caramelle. Bravo. Sì, mo me lo ricordo. Sì. Poi in Italia sono arrivati, non molto tempo fa. Perché Luca dice che sono austriache. Le ho viste girare alle sue. Me lo ricordo che tu sparavi le caramelle in bocca. E poi le caramelle in sé non è che erano. Sì, erano delle zuccherine quadrati, sì, colorati. Esatto, sì. Come tante altre cose che adesso poi nell'elenco che andiamo a fare, le persone ci stanno già facendo vedere. Eccole qua le pezze, le vedete qua nella foto che hanno appena pubblicato. Però stanno facendo vedere tante cose di cui avevamo già, è già nel nostro elenco, no? Tra cui anche, lo dico adesso visto che abbiamo parlato di pez, chi è che si ricorda dei braccialettini con l'elastico con dentro tutte le perline fatte di caramella? Sì, mi ricordo. No? Sì, quelle colorate. Anche l'igiene di quelle. Esatto. L'igiene a go-go, proprio. Quelle te le metti al polso, te le tenevi al polso e poi dopo le davi all'amico che le sgagnava per romperle perché non si potevano tirare fuori, devi sgagnarle, una mozzicata per tirarne via due o tre e poi gli ridavi il braccialetto che se lo rimettevano al polso e che schifo, mia. sì è vero che schifo, assolutamente sì. Vabbè, comunque c'è anche il gelato azzurro, no? Sì, o rosa, che venivano chiamati il puffo e puffetta, che tra l'altro, e oggi Walter mi diceva che era tipo fior di latte però col colorante. Io però mi devo dire la verità che l'ho assaggiato solo una volta il puffo, no, e quello che ho assaggiato io sapeva di liquilizia. Sì, cioè, aveva un sapore strano, no, aveva una sua caratteristica che non ti so dire, ma era liquilizia però ovviamente con tanto colorante. E io mi ricordo che c'era anche un gelato di quelli proprio normali, di quelli che insomma classici da bar, da bancone, di quelli tipo ghiacciolo per esempio, che ti lasciava proprio la lingua blu, e mi ricordo questa cosa, che però non mi ricordo qual era, eppure lì veramente i ghiaccioli dell'epoca anche adesso sono colorati, però sono un po' sullo sbiadito, sono più sbiaditi, sì, per una volta erano proprio fosforescenti, fluorescenti proprio, e poi lasciavano proprio il colore come i ghiaccioli al limone che erano gialli. Esatto. Adesso sono bianchi. Beh, sono bianchi. Quelli alla menta, insomma, e anche tanto per fare riferimento a una cosa che poi avevo scritto più tardi, se ci andate a pensare, anche se ancora oggi è così, ricordatevi i sciroppi Fabbri, ad esempio, e poi ovviamente tutti i sciroppi dello stesso tipo, magari poi di altre marche, perché ovviamente lo sciroppo Fabbri, la menta in particolare, era verde, smeraldo, intenso, di un colore assolutamente innaturale, ed è ancora così oggi, però se tu vai a vedere gli sciroppi alla menta, quelli più di qualità, quindi una volta il top era il Fabbri perché comunque era quello originale, poi ce ne stavano altre marche che magari erano meno buone, però se tu vai a prendere lo sciroppo alla menta, magari più di qualità, io ne ho comprato uno una volta da Italy, è bianco, cioè non è colorato, cioè nel senso è proprio il sapore è buonissimo, è di menta e tutto quanto, ma non c'è quel colorante, no? E quei coloranti alla fine erano fighi perché era pure proprio il periodo in cui, non so se Carlo si ricorderà, quando si vedevano nei film o nei telefilm di fantascienza queste bibite, no? Questi bar fantascientifici con tutte le bibite colorate. Recentemente della birra romulana, esatto, che era blu, era azzurra. Che ne hanno fatto qualcuno ha fatto all'estero, non mi ricordo dove, avevano prodotto la birra blu, la birra azzurra, e tutti hanno detto è romulana. Esatto. Comunque vedo che in live tutti stanno pubblicando più o meno aggeggi vari che coloravano la lingua. Bene. Allora, la roba che colora la lingua è stato un periodo anche di non so di che anni era, forse i primi anni 80, di sopravvivenza anche qui. C'era una moda pazzesca dove tutto doveva colorare la lingua, e chi riusciva a far vedere la lingua più colorata, e da qui anche la Chupa Chups aveva fatto i lecca lecca, che se li ciucciavi verdi, gialli, blu, lasciavano tutta la lingua gialla, verde, blu, e va che figata, tutta la lingua verde, E poi hanno fatto i gelati, hanno fatto le frizzi pazzi che coloravano la lingua, hanno fatto un sacco di prodotti che alla fine lasciavano il colore, e che ha avuto il suo successo perché appunto aveva questa proprietà di lasciare il colore, che probabilmente era visto come un difetto di fabbricazione, ma perché dice cacchio, questo colorante è talmente intenso che minchia si colora tutta la bocca, che schifo, e invece guarda te, ha riscosso successo, e allora pam, hanno fatto 3000 prodotti, visto che ai bambini gli piace, che colora. Beh, tutto. Io a questo punto mi inserirei con un classicone, cioè un classicone del periodo, sia dal punto di vista dei coloranti che dal punto di vista del dolciume, dato che tu mi parli dei Chupa Chups, delle Lecca Lecca, io ti parlo dei Big Bubble, cioè sì. La Big Bubble che poi dopo è uscita dei vari gusti, però la Big Bubble originale con quel ciccone che riempiva la bocca, a parte che era un quadrato, cioè era veramente un panetto di fumo praticamente, come direbbero. La fanno ancora la Big Bubble? Sì, fanno ancora. Però dico, la Big Bubble, se voi ricordate, era dolcissima, cioè veramente carie su carie, esatto. E poi la cosa bella è che quelle erano proprio creavano tossicodipendenza, cioè tu ne più ne mangiavi più ne volevi, capito? Quindi io mi ricordo, c'è stata una volta che mi sono riempito la bocca del Big Bubble, mangiavo avidamente sta roba, succhiavo tutto il succo colorato e poi c'è tutto fatto gusto tutti frutti, non lo so che cos'era, tipo fragola, non so che frutti. Cazzo era, sì, comunque il gusto che non si sa che cos'è, ma sa di Big Bubble, è tutti frutti. Però la cosa bella delle Big Bubble è che ci facevi i palloni giganteschi, esatto, infatti era proprio Big Bubble, cioè quello era petrolio dolcificato e colorato. Sì, quello è veramente prodotto totalmente sintetico, non credo ci fosse niente di naturale all'interno. Però per zucchero forse, ma neanche, secondo me pure quello lo sintetizzavano in qualche modo, tipo che ne so, qualche prodotto surrogato. Però veramente, cioè, le Big Bubble erano buone, cioè, però era un veleno, veramente era un veleno, ragazzi. Sì, lo sarà ancora comunque, vabbè. Sì, però sempre poi, nel rispetto, insomma. Io mi ricordo le Big Bubble che poi sono uscite Fragola e Panna, che erano quelle che avevano l'interno, e quelle io me ne ricordo, le Big Bubble che avevano dentro una specie di succo di frutta o qualcosa di cioè fuori la cicca, quando la mordevi dentro usciva invece un liquido. Ce n'era una proprio più tradizionale che era tipo un confetto, una caramella, tipo un confetto di zucchero fuori, quindi bianca, e quando la mordevi dentro c'era la menta liquida, cioè la gelatina di menta. Sono state tante di queste, adesso non mi ricordo i nomi, però anche lì ha avuto il suo momento quella roba, con si chiamavano Center Fresh, mi ricordo. Center Fresh, bravissimo, centro fresco. Erano delle cose qua, dei cubetti con dentro la menta e il Center Fresh. Poi sono uscite io ci andavo matto, comunque. Quando creano quell'effetto un po' come anche i pocket coffee, insomma, tutto sommato hanno il loro successo per questo motivo, che c'è questo liquido che aveva il Rocher Roffer, i Moncherie, e anche i cioccolatini della Lindt, quelli che dentro c'hanno il robo morbido liquido quasi all'interno, non mi viene il nome. Comunque Piergi, anch'io ancora continuo a comprare gli sciroppi Fabbri, lo faccio rarissimamente perché sennò me li sparo, esatto. Però ogni tanto d'estate, ogni tanto li compro, menta in particolare, perché voi sapete il mio rapporto, insomma, con la menta, l'ho raccontato mille volte, con il colore verde, col fatto che mia madre da bambino mi faceva latte in menta e lo chiamava il cappuccino verde, io l'ho raccontato tante volte tutte queste storie, quindi insomma è inutile ritornare, però sì, cioè nel senso, gli sciroppi Fabbri fanno parte proprio della mia vita in maniera quasi indissolubile, come il supplì di Piazza di Roma, tipo un miliardo di calorie a bottiglia sarà. Mi ricordo che noi li prendevamo spesso, anche mia mamma, ma l'utilizzo principale era farci i ghiaccioli in casa. Con le granite. Anche sì, c'erano i ghiacciolini di menta, sì, che c'era lo stampo dei ghiaccioli, bravo, da mettere nel freezer. A proposito di ghiaccioli, mi hai fatto venire in mente un'altra porcheria che esiste ancora adesso, ma che a un certo punto è diventata molto famosa, i famosi polaretti, che erano delle bustine polaretti con dentro un liquido magico, già pronto, chimico, che infilavi nel frigorifero e venivano fuori sti affari. Nel congelatore, sì. Però quello era chimica vera, cioè non era acqua zuccherata, perché sennò diventava un mattone. Invece no, era friabile, per cui dentro c'era qualche ingrediente magico. Infatti qui dicono le Big Bubble fredde erano praticamente immasticabili, dovevi farle riscaldare in bocca prima di masticarle. Ma io, sai, che facevo, me le tenevo in tasca per un pochino. Erano un mezzo etto, una circa di quelle. No, è come quando la mamma ti mette in frigo la Nutella, che poi dopo devi scalpellarla. Salutiamo Filiberto che si è unito alla chat, benvenuto. Se stai ascoltando ovviamente la diretta, e vabbè, comunque c'era, cioè, giustamente Davide faceva anche riferimento a una cosa che è nata allora ma esiste ancora, che è la margarina, vi ricordate anche la margarina gradina, che era come il burro, soltanto che si pensava che faceva bene perché era a vegetale, poi si è scoperto che in realtà, essendo un surrogato chimico, in realtà fa malissimo, però ancora esiste, ancora esiste, però all'epoca io vedevo proprio le pubblicità dove ti dicevano leggera, fa bene, scherzi a mangiare il burro, che schifo. È come il dado, poi, ricordate il dado Knorr, la stessa cosa, cioè, il dado, quello è ancora un prodotto abbastanza diffuso anche adesso. Sì, diffuso, però non è come allora, che veramente non si sapeva bene che ci stava dentro. Esatto, adesso è brodo condensato, poi, all'epoca era un io se c'ho tempo il brodo me lo faccio da solo quando devo utilizzare un brodo per arricchire un piatto, no? Però comunque, ecco, per esempio ci sono varie polverine, varie cose, però il dado, quando io mi ricordo quando ero ragazzino e c'era, che ne so, cuocevi il pollo col dado, cioè lo sentivi che c'era il dado, cioè, perché era talmente forte come cosa, poi ovviamente lo dovevi sapere un po' dosare, c'erano tantissime pubblicità, mamma guarda un pollo, il pollo, quello che dice no perché tu cucini e poi sa di dado, no? E quindi c'era sta immagine del pollo tutto a forma di dado, la teglia col dado dentro, gigantesco. Che cosa mi hai tirato fuori dalla memoria, non me lo ricordavo più, il pollo fatto a cubi, sì, tutto esatto. Ma sa di dado, ma sa di perché dado, non hai usato il dado, Che è vera meglio, quello sì assolutamente. E poi Davide, ci sono anche tutti gli intrugli fatti con il latte. Questo che mettevamo nel latte. Sì, promessa di renderlo più buono e di far consumare più latte ai vostri ragazzi. Non bevono il latte ai vostri ragazzi, ma se gli mettete dentro il cioccovo, l'uovo maltina, lo sprint, il Nesquik, lo bevono più volentieri il latte, certo, perché poi diventa un'altra roba, non bevi il latte. Anche orzo bimbo bimbo bam. Esatto, tutti i nomi che dici mi viene in mente la pubblicità. No. Se l'uovo maltina mi viene in mente Tony, lo sciatore che diceva. Che poi l'uovo maltina era buono. Io, che se capita una volta ogni due anni, me lo compro comunque. Sì, un Nesquik anch'io. Se l'uovo maltina è Nesquik, sì, è vero. Però già Orzo Bimbo. Lo sprint ti dava il regalo Goldrake, quello me lo ricordo. Quel barattolone arancione comunque, gigante. Cioè, il Nesquik c'aveva sempre la sorpresa dentro che per tirarla fuori facevi un macello. Perché giustamente. Perché ricordiamo che il Nesquik era una polvere praticamente impalpabile, cioè proprio. Esiste ancora. Sì, no, lo so, però anzi, tra l'altro so che non è la stessa cosa, però io ci ho sempre avuto sta curiosità, essendo stato un fan del Nesquik. Io il Nesquik fino a 20 anni penso che mi ciucciavo il Nesquik, poi l'ho raccontato, io mettevo 3 cucchiai di Nesquik e più 2 cucchiai di zucchero, quindi per me diventava una tazza di cioccolato praticamente. La prima volta che sono andato a dormire a casa di un amico mio, il giorno la madre preparava la colazione e mi ci aveva messo questo mezzo cucchiaino dentro al latte e c'era sto latte pallido che non sapeva di niente, e dico scusi ma posso avere, e lei dice ancora. Ah, ne vuoi ancora? Perché queste cose del demonio, capito? Cioè, tu non sai le proporzioni. Le proporzioni è 80 Nesquik, 20 latte. 20 latte, esatto. È non contrario, esatto. Comunque ragazzi, sul canale qualcuno ha pubblicato una foto che non è un fake ed era una pubblicità dell'epoca, è al massimo, perché dice burro è no, buono, è un fake. Il burro è scivoloso, ecco perché dobbiamo mangiare di più possibile, il più possibile per lubrificare le vene e le arterie. Sì, certo. Minga troppo. No, quello è un fake moderno. Ok, va bene, allora niente. Eravamo rimasti appunto a queste bevande al latte che veniva arricchito da cose. Vabbè, quella era allora, se non sapendo che cosa c'era dentro, perché ritorniamo sempre al fatto che poi gli ingredienti sono diventati oggi insomma una cosa che è molto palpabile, molto visibile, però se ci vai a pensare insomma non sai quello che c'è dentro, però di per sé queste erano le cose anche meno dannose, tutto sommato aiutavano i ragazzini a far colazione, alcune erano anche buone, perché per me l'uovo maltino e il Nesquik spaccavano proprio, ma il Nesquik veramente era veleno, perché cioè pure quello creava dipendenza, cioè tutto sommato, insomma io veramente in particolare penso che ne ho pagato le conseguenze, però... Sai, più che altro è il concetto del pensiero, se tu ascolti gli spot dell'epoca, di come cercavano di convincere le mamme a trovare la buona occasione per far bere il latte ai figli, no? In realtà, cioè, per fargli fare una cosa buona mettiamoci dentro la merda. Col sapore di cioccolato rende il latte prelibato, Nesquik. Esatto, ragazzi. Quindi mio figlio beve una tazza di latte al giorno, sì, con dentro però mezzo etto di porcheria. Perché anche lì noi pensavamo che lo zucchero e il latte facesse bene, invece abbiamo capito che lo zucchero e il latte dopo una certa età no. perché diciamo uno non viene più assimilato dall'intestino e l'altro ovviamente ti fa venire diabete, insomma. Però vabbè, andiamo avanti con le pizzette. Allora, quella di cui vi voglio parlare io è una pizza che secondo me non hanno visto in molti, che fortunatamente esatto, era delle pizze confezionate più o meno sotto vuoto, che venivano, erano semi cotte, non erano neanche cotte al 100%, tu te le devi portare a casa e completare la cottura a casa. Erano molto popolari negli anni 80 e il supermercato era nel frigo della roba fredda, tu prendevi queste pizzette che erano della gomma, proprio esattamente della gomma, con sopra una spatacchiata. Io ho messo una foto che vediamo se riesco a girare nel canale. Questa foto qua, ma neanche per sogno, no, vabbè, niente. È una vera schifezza allucinante, però io penso, a occhio era chimica, cioè era veramente... Ma tutto era chimico. Tutte le cose conservate, anche se era una pizza, era veramente di gomma, cioè proprio, non so cosa dirti. Beh, d'altronde andava di moda, erano le gomme, quindi alla fine, cioè, facevano la gomma a sapore di pizza, facevano quelle a sapore di aglio, potevano fare pure quelle... È giusto che hai citato le pizze, a questo punto le pizzette Catarì, chi non se le ricorda? Sì. Le pizzettine Catarì hanno avuto successo per la pubblicità fatta da cosa, come si chiama, comico famosissimo dell'epoca. Salvi? No, non era Salvi. Chi era? Era quello che lavorava con Arbore. Pizzettine Catarì. Eccolo lì, sì. Catarì, quello che fece tutta la... Ma forse coso, famosissima. Aspetta, Bracardi. Bracardi, essere, sì. Bravo, okay. Bravo. Bracardi. Stuzzicano l'appetito. Allora, il prodotto di per sé non era neanche tanto male, il problema è che proprio la pizza era l'ultimo coso di cui sapeva. Io me ne mangiavo, se capitava, rarissimamente, perché devo dire che io poi sono stato fortunato tra i sopravvissuti, perché mia madre non è che le prendeva tutte queste cose, cioè nel senso... Io me le prendevo da solo. No, vabbè, ok. Comunque, giustamente Filimberto, che salutiamo, insomma, per essersi unito, i polaretti sono un mistero, perché dice che lui ne ha messi in una confezione intera dentro al freezer e non si sono mai congelate, sono rimaste praticamente liquide. Hai qualche problema nel frigorifero, secondo me. Nel congelatore. Non lo so. Comunque, invece, Piergi ci dice che la margarina è olio idrogenato chimicamente. Non so che significhi, quindi... Suona malissimo, comunque. Ok, sì. Qualsiasi cosa che sia è brutta storia, insomma. Suona molto male. Braccialetti ne abbiamo parlato, a questo punto parliamo delle quelle cicche gomme che vendevano in bustina, che tu le ficcavi sulla lingua, scoppiettavano, no, cicche, sì, erano delle polverine, sì. Erano a volte delle cicche proprio che tu le mettevi, frizzavano, poi dopo man mano diventavano gomma. Altre invece proprio frizzavano e basta, era una roba frizzante. Guarda, se non mi ricordo male, tipo tu mettevi questa specie di polverina sulla lingua, frizzava e poi dopo si condensava e diventava una gomma, può essere? Sì, è così, diventava una cicca, da una gomma da masticare praticamente. Però scoppiava proprio, all'inizio proprio... scoppiettava, poi dopo si miscelava tutta e diventava una gomma. La solita gomma a tutti i frutti, quel gusto. Esatto. PRG, i plasmon erano buoni. No, le plasmon sono ancora capolavoro. Il plasmon adesso, ragazzi, era una cosa che poi era, ci avevano fatto tutto il brevetto sul il plasmon come materiale. Esatto. Il plasmon ancora oggi io me le mangio volentieri, tranquillamente. E sono ancora, non sono una porcheria, credo che siano che... Giustamente Filimberto ci scrive: vabbè, io ho mangiato le verdure nell'aprile del 1986, sapevano di Chernobyl. Questo tutti, purtroppo, cioè questo vale, anche lì siamo di sopravvissuti, ma ne parleremo di queste cose, perché questo non siamo Chernobyl ricordiamo che abbiamo fatto un episodio su tutto il resto al quale siamo sopravvissuti, oltre ai cibi, perché insomma noi adesso parliamo dei cibi, ma c'è anche altro, diciamo. Allora, io qua ho pubblicato una foto che però questa è da vedere, perché se non la vedete Speedy Pizza pure, sì, non la capiscono. Vediamo se riesco a pubblicarla, forse ce la faccio. Sì, ho fatto la cattura dello schermo del documento, vedete, Le bottigliette acqua zuccherata, esatto, queste perché. Bottigliette qua che circolavano ai nostri circolano tempi. circolano ancora. Bah, mio figlio ne ha bevute i quintali a 12 anni adesso, si chiamavano Trinchetto una volta. Il trinchetto. C'è ancora l'oratorio, lo vendono ancora, ma le trovi anche al supermercato. Ecco, queste bottigliette misteriose. Che cos'è? Scusa, che ci sta dentro? Acqua zuccherata. E colorata. No, perché è la bottiglietta che è colorata. Adesso la bottiglietta è colorata, ma ai nostri tempi era colorata proprio lei. Cioè, ovviamente le bottigliette erano trasparenti e dentro c'era liquido verde, arancione, giallo, blu. Ma perché adesso... uno si dovrebbe bevere l'acqua zuccherata? Scusa. Che ne so? Perché costava poco, costava tipo 10 questi lire. Questi sono costava... sex toy, dice Walter, giustamente. Esatto. In effetti. Costavano tipo 5 lire, 10 lire, 50 lire, che costavano meno di una bibita vera, però ti sembrava di bere una bibita, invece era acqua zuccherata davvero, e era proprio una roba, però questi non l'ho mai visti veramente, ma a volte erano aromatizzati. Io me ne ricordo quando ero piccolo all'oratorio, e anche adesso all'oratorio ci sono, quindi è una cosa che al nord circola parecchio, comunque nei bambini almeno. Vabbè, io poi ho messo l'elenco ho messo l'elenco della roba che in realtà oddio, c'è ancora adesso e molti l'apprezzano ancora, io non l'ho mai apprezzata più di tanto, che sono Manzottin, Simmental, Montana, che poi Montana. Le citava prima Walter, infatti. Esatto, che sono carne scatola che oggi si mangiano ancora e sono probabilmente fatte come allora, non lo so, però probabilmente allora secondo me. Beh, diciamo dentro... che il brodo, allora diciamo che la caratteristica di queste carni è che sono circondate come conservante, tra l'altro, da un brodo condensato, fondamentalmente. Esatto. Gelatificato. Gelatina di brodo che praticamente li tiene conservate. Ora, probabilmente quello che è contenuto dentro la gelatina di brodo sicuramente non sarà quello degli anni 70, sono abbastanza convinto di questo, perché probabilmente allora la situazione era, insomma, come dicevamo, con minori controlli, molte cose non le sapevamo neanche, c'era più l'attenzione al prodotto industriale piuttosto che però insomma, diciamo che a memoria le cose secondo me hanno lo stesso sapore di allora, e tra l'altro a me non è che mi fanno proprio schifissimo, diciamo così, insomma. Io invece non vabbè mai... te non ti piacciono in generale, no, beh, ma non sono così cibo schifezza, diciamo, ecco, la Simmental eccetera in alcuni casi viene anche data nelle diete con insalata, quindi alla fine è carne conservata, sì, mettendola nel brodo e fatto diventare gelatina alla fine, ma non è così schifezza come uno potrebbe pensare. Non c'entra niente con quello che agiteremo alla fine, però la lasciamo per la fine, quella è un'altra cosa. Poi io ho citato dei gelati a forma di piede, vabbè, ma non tanto a forma di piede, ci stavano pure a forma di altro, insomma. Sì, c'era il piedone della San Montana, se non mi ricordo. Sì, che non so se esiste più, era comunque un coso colorato, verde, rosa. Quella cosa rientra più nel... Ne parlammo quando facemmo 70 mila 80 con Luca Casciola, cioè secondo me lì entra proprio in un c'era un qualcosa di morboso in quella, perché io mi dovrei ciucciare un piede, fondamentalmente. se tu ci pensi, insomma, era un po' strano, c'era pure quello a forma di faccia, voi ricordate quello, c'era anche quella forma di pantera rosa che ce n'erano, vabbè, di tutti i comunque tipi. Sì, dai, comunque. Poi ha fatto SpongeBob, ne hanno fatti tanti, ovviamente, poi dopo il personaggio del cartone animato, però quello del piede era strano forte, dai, cioè, sì, senso, che ci avevi in testa quando hai realizzato. Che tra l'altro, se non mi ricordo male, il pollice era pure marrone. No, era tutto rosa. Era tutto rosa. Io mi ricordavo c'era questa cosa la versione con la parte del piede di cioccolato. Bravo, io quello dicevo. Cerco. Ah no, hai ragione, c'era anche la versione col dito marrone. Vedi. Quello variegato. Che insomma faceva schifo pure solo a pensarci, tutto sommato. Sì. Ho trovato l'immagine. Guarda, io questi tre modelli. Io a questo passerei anche al Bondi Motta, non tanto perché il Bondi Motta in realtà esiste ancora, però si narrava la leggenda, però poi quelli come me ci hanno provato, in effetti è vero, che se tu mangi il Bondi Motta camminando senza bere niente, alla fine non riesci più a respirare. Cioè, rischi della morte, perché praticamente era talmente spugnoso che assorbiva completamente i liquidi della bocca e praticamente ti chiudeva le vie respiratorie. Era una cosa incredibile. Il Bondi Motta va mangiato solo in condizioni di sicurezza, perché altrimenti altrimenti è rischioso per la vita. Eppure era condizioni di sicurezza, era pure buono, perché insomma il Bondi Motta era buono, cioè nel senso pure intinto nel latte, insomma. Secondo me era più buono allora, oggi forse perché ha perso le cose che facevano male, dice, adesso, esatto, adesso per adattarsi alle normative europee, ma adesso, più buono, allora. Adesso vi ricordo una cosa che non so quanti di voi, sicuramente voi tre, voi due sicuramente, però insomma non so quanti di quelli che ci ascoltano, perché magari non tutti hanno avuto accesso a questo fast food tra virgolette, gli spaghetti che facevano da Italy in Italy. Ricordiamo, contestualizziamo per chi non l'ha mai visto, Italy in Italy era un fast food italiano dove sì c'era il panino con l'hamburger, le patatine, però c'era il pizzocchero, il pizzotto, come si chiamava non mi ricordo, e poi c'erano praticamente questi tre tipi di pasta. C'era la pasta verde che era quella con col pesto, la pasta bianca che era praticamente col parmigiano fondamentalmente, e la pasta rossa che era quella al pomodoro. E queste tre paste praticamente, oltre a essere iper espresse, cioè tu le ordinavi, era come il panino di McDonald's, arrivavano praticamente subito. Poi questi condimenti ci avevano sto colore, oserei dire vivace, abbastanza vivace, che veramente rendevano una cosa tossicissima, che insomma levate. E insomma, chi ha avuto l'opportunità di andare da Italy in Italy, insomma, sicuramente si ricorderà. È durato poco comunque. È durato poco perché mi pare che fu assorbito in Burghi. E poi dopo Burghi ovviamente fece poi tutto il suo percorso verso McDonald's, se non sbaglio, insomma, oppure viceversa, che poi dopo si narrava che è Burghi che ha comprato il McDonald's in Italia e poi dopo se c'è stata la trasformazione, insomma, vabbè, in realtà non ce ne frega manco niente. Esatto. Io mi ricordavo del pizzotto, qualcosa del genere, invece degli spaghetti un po' meno, ma mi ricordo il pizzotto, quello sì, il pizzocchero, il pizzotto, non mi ricordo, ma adesso ho trovato questo che adesso pubblico, che è il menù di Italy in Italy, con gli spaghetti con i tre colori, sì, che uno tipo era Garibaldi, l'altro non mi ricordo, però insomma c'erano sti tre nomi molto patriottiche come cosa, però proprio per turisti poi fondamentalmente. Sì, sì, allora sì, Mazzini, vabbè. Spaghetti verdi, era verdi ovviamente, poi okay. Spaghetti Mazzini e spaghetti Garibaldi, sì, vedi, però un po' la memoria, vedi. E poi c'era il famoso pizzotto, eccolo lì, proprio pizzotto. Me lo ricordo. Vabbè. Sì, vai Carlo. Sta a te, Carlo. Sì, era la cosa che poi ho aggiunto in conclusione, perché più volte durante questa puntata abbiamo detto ma questo c'è ancora oggi, questo c'è ancora oggi, questo c'è ancora adesso. Però c'è un distinguo da fare, perché io lo faccio su una cosa che mi ricordo bene, che prendevo quando io ero piccolo e prendo ancora adesso ai miei figli, che è la girella motta. Buona. Okay? Che non è un cibo spazzatura, però io adesso, negli ultimi anni, quando prendevo la girella al supermercato e la davo ai miei figli e poi la guardavo e dicevo: ammazza che piccola che è la girella, ma io me la ricordavo gigante. Poi dopo, pensando tra me e me, dicevo: ma forse perché ero piccolino io e quindi essere piccolo mi sembrava più grande, no? Adesso che sono grande mi sembra più piccolo, no? Sapete come quando ritornate in un posto dopo anni e vedete una strada e vi sembra piccola perché voi eravate piccoli e vi sembrava grande, ecco, concetto più o meno quello. Però in realtà poi adesso, con l'esplosione anche di siti che parlano di anni 70, 80, la ricerca delle vecchie pubblicità eccetera, mi è capitato di ritrovare sul web le pubblicità dell'epoca della girella. Sì. E allora ho detto: ah, vedi che non è che mi ricordavo male io, cioè, la morale è sempre quella. La girella era il doppio di adesso. Infatti poi ho messo aveva un giro in più intorno, quindi e poi il giro più largo, poi è quello più è quasi la girella intera. In realtà è cambiata tantissimo, solo che ovviamente essendo cresciuti nel frattempo non ci siamo resi conto del cambiamento, ma le girelle di adesso sono mignon rispetto infatti alla girella. Carlo, tu mi insegni Carlo, che uno che proprio sa la girella, sa fa da sola con dentro la Nutella, cioè, capito, te lo fai a casa col rotolone di pasta, no? Oggi. Sì, però sai, la girella, quella che compravi era la girella, insomma, era sì, che poi tra l'altro c'era il liquore dentro, secondo me, comunque, non lo so, però ho scoperto anche guardando le foto che per esempio anche la pasta stessa, il pan di Spagna di cui era fatta, sì, era giallo, mentre adesso è bianco, quindi certo, è cambiato anche un sacco di altri ingredienti, quindi vuol dire che è vero che magari ci sono ancora adesso delle cose che c'erano una volta, ma chissà cosa c'era dentro prima e com'era la differente anche apporto calorico che tu ti mangiavi la girella dell'epoca, praticamente era come due pranzi. E poi, e poi c'erano anche i coloranti. Ecco, tornando ai coloranti, esatto. Se ve lo ricorderete sicuramente tutti, che quando guardavate. Comunque confermano che la girella è microscopica oggi. Esatto, adesso piccolina la girellina. Pierci dice che il gruppo Burghi era di Cremonini, padre di Cesare. Tra l'altro, questa cosa mi sa che è una mezza leggenda. Io esatto, non so, l'avevamo già detto e mi avete smentito. Esatto. Quando l'ho detto, mi avevate non smentito. È, cioè, non è vero che Cesare Cremonini è il figlio di Cremonini, quello delle carni. Che vabbè, insomma, ha venduto tutto a McDonald's con la clausola di fornirsi delle carni. Sì, questa qua la sapevo. La sapevo anch'io, però devo dire, non so se sia proprio veritiera sta cosa. E comunque, vabbè, ce ne frega anche poco, tutto sommato. Insomma, vabbè. Comunque, non l'avevo detto prima, me lo sono dimenticato quando parlavo del E125. Oddio, il tegolino. Quando negli anni 70, 80 mangiavamo un prodotto e quella volta ci scappava l'occhio negli ingredienti, era facile vedere una sfilza di E123, E125, E129, E223, E224. C'era un sacco di E che sono misti tra coloranti e conservanti, che avevano tutte queste sigle con E e un numero. Adesso, se riguardate, quasi mai ci sono queste sigle, ormai su nessun prodotto sospante, trovi certo. Vabbè, questa è la cosa positiva, è tutto sommato, se ci pensi. Scrive nel gruppo diretta Gianluca, che dice che il tegolino era quadrato e poi è diventato allungato, rettangolare. Ecco, questo so il perché era una delle domande che ho fatto a un mio amico che lavora in Mulino Bianco, fanno le merendine eccetera, e mi ha detto che praticamente adesso le linee di produzione delle merendine sono tutte uniformate, e quindi e anche il confezionamento eccetera, e quindi una forma diversa, cioè quadrata, del tegolino gli scombussolava tutti i sistemi di packaging, impacchettamento, confezionamento, stoccaggio eccetera, e quindi gli hanno cambiato la forma e il tegolino si è uniformato alla forma che hanno tutte quelle merendine lì, cioè rettangolare in pratica, per questioni di standardizzazione delle linee di produzione praticamente. Ottima idea, sì. Ecco, vabbè, andiamo verso la conclusione dell'episodio. Sì. Con un po' di aneddoti e citazioni. Sì, in pratica, scrivendo e leggendo il documento che abbiamo condiviso in questi giorni, pensando al cibo spazzatura, ho detto: ma non solo noi in Italia avevamo il cibo spazzatura, no, anzi, era una questione internazionale. E come hai giustamente detto tu, Simone, all'estero perseverano, mentre noi in Italia magari abbiamo calmierato in Europa, comunque abbiamo messo delle regole, negli Stati Uniti e in altre parti del mondo invece queste regole se le fottono bellamente. Esatto. E uno dei cibi spazzatura per eccellenza, se vogliamo, è entrato nel lessico quotidiano, cioè lo usiamo tutti questa parola, ma molti magari la usano senza sapere che si riferisce a un cibo, e in pratica si tratta dello spam. Cioè, quando noi diciamo che ci è arrivato dello spam nella posta, qualcosa spam, è qualcosa che di non desiderato, no? Certo. Praticamente. Sì, perché lo spam è esatto. Brutto forte, ragazzi. E lo spam, cos'è lo spam? Lo spam è uno dei cibi più famosi negli Stati Uniti o in altre parti del mondo, non in Italia. È una carne in scatola, ma a differenza della carne in scatola di cui abbiamo parlato prima, cioè delle nostre Simmental, Montana, eccetera. Una carne misteriosa, prima di tutto. È un emulsionato di maiale che loro chiamano prosciutto, per intenderci, cioè quello che è prosciutto, messo in una scatoletta di latta, in un liquido ovviamente tipo quello che hai raccontato tu prima, dei salumi, esatto, quello conservante eccetera, in cui tiri fuori queste fette spesse di carne prosciuttosa, per dirne che lontanamente ricordano il rosso del prosciutto, e loro se la mangiano nel panino. Però sai che questa roba la impanano e la friggono, lo chiamano prosciutto speziato, sì. Spiced ham, sì, sì. Praticamente, cioè, comunque questa è la base di tutti i Fallout, un macinato ovviamente, cibo spazzatura e spam fanno parte proprio della mitologia. La foto che ho pubblicata l'ho fatta io direttamente in un supermercato americano ecco. Dove c'è la versione, ci sono tante tipologie, c'è cioè di tacchino, di di vari tipi di carne. No, è molto gettonatissimo proprio. Perché molto gettonatissimo durante la Seconda Guerra Mondiale. Sì, sì. Ma poi aspetta, scusa, ti interrompo dicendo che poi oggi questo packaging che vedi oggi è anche carino, ma una volta era terribile, cioè nel senso era veramente roba militare, cioè sembrava una cosa proprio da bunker atomico, cioè. Esatto. Ed era all'epoca l'unico prodotto a base di carne che non aveva bisogno di essere conservato in frigorifero, ma potevi conservarlo, certo, dentro, come le cicche famose di prima, c'era il 50% era conservante. Esatto, e diventò uno degli alimenti più diffusi nelle truppe americane, certo, impiegate durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi poi è diventato apprezzato da tutte le classi popolari anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che oggi lo spam, se proprio uno vuole provare ad utilizzarlo, ci si fanno tante varianti a livello di cucina, perché chi lo bollisce, chi lo frulla, chi lo frigge, chi lo impana, chi non lo mangia come noi in Italia, oppure per esempio una cosa che da noi ha faticato ad arrivare, anche se poi è arrivata, ma comunque non ha mai sfondato più di tanto, è il burro d'arachidi, che è una delle cose che anche l'altra terribile. Cioè io la prima volta che ho mangiato, mi sono spalmato del burro d'arachidi su una fetta di pane tostato, pensavo che fosse salato, perché per me burro d'arachidi, per me l'arachide, cioè l'associo alla nocciolina salata, capito? Quindi certo, immaginavo di mangiare una cosa tipo spunti, e quando ho sentito che era così dolce mi ha fatto proprio schifo, ma non per fare lo schifittoso italiano che tu sei, no, proprio veramente mi ha fatto schifo, perché io poi, cioè, veramente mangio di tutto, cioè non è che... Vabbè, comunque il punto fondamentale, ma è perché noi adesso utilizziamo questo termine spam legato ai messaggi di email, ma anche di qualsiasi altro tipo di messaggio che ci arriva via internet indesiderato, cioè le cose che non desideriamo ricevere le riceviamo comunque. Il tutto deriva da uno sketch comico dei Monty Python. I Monty Python facevano una trasmissione, Flying Circus, che era famosissima trasmissione comica in Inghilterra e negli Stati Uniti, e questa puntata specifica dello spam è andata in onda nel 1970, dicembre del 70, ed era praticamente ambientato in un locale, un bar, che era pieno di vichinghi, e arriva questa cameriera che gli legge il menù di che cosa c'era disponibile, e il menù era uova con spam, salsicce con spam, pancetta con spam, cosa con spam, cioè qualunque cosa era con spam. Anche io voglio aprire uno spam restaurant. Allora il cliente, che non gli piaceva lo spam, gli chiedeva qualcosa che non avesse lo spam, gli chiedeva qualunque cosa, e questo tentava di ordinare qualcosa che non contenesse spam, e il cameriere continuava a rispondergli con spam, no? Alla fine continuava a portargli, o comunque a proporgli, qualsiasi cosa contenente lo spam che lui non voleva. E quindi questo sketch dello spam che non era desiderato ma continuava ad arrivare in tavola, era uno sketch che molto famoso, e negli anni 90 in alcuni chat forum dell'epoca del primo internet qualcuno disse: questi messaggi che arrivano nel forum di qualcuno che ci scrive, ma noi non vogliamo che ci scriva, che ci mandano pubblicità piuttosto che qualcos'altro, è come lo spam dei Monty Python, e da lì hanno iniziato a chiamarla spam, e da qua è diventato poi storicamente il nome della posta o dei messaggi, certo, indesiderati praticamente. Allora c'è PRG che ci dice che in una puntata di Men vs Food, e qui mi può confermare Davide che c'è stato, dicono che praticamente lo spam è diventato la pietanza nazionale delle away. L'hanno detto lì, cioè non è che non debba essere forse la verità, insomma. Esatto, io non l'ho visto così tanto, se devo dire la verità. Le guai al 9K, che salutiamo, non me l'ho accorto che c'eri, scusa caro, perché sennò ti avrei salutato prima. Lui lo mangia molto spesso a cucchiaiate, adora il burro d'arachidi. A me fa veramente, ragazzi, non voglio fare lo schifittoso, però mi fa veramente schifo, cioè. Sì, anche a me, l'ho provato, ma non niente. Egg, bacon, sausage più spam. Fritto. Spam, no, bacon, sausage più spam. Cioè, quindi c'è il doppio spam. Spam, egg, spam, spam, bacon. La spam. E spam, spam, spam, egg più spam. Vabbè, bellissimo chi ha postato questa cosa, chi è? È sempre Gianluca. Io poi ho postato il video della, di quello sketch. Scusa, non avevo visto il menu sopra, ho visto sotto lo sketch. Sì, che la cosa divertentissima di questo menu è che a un certo punto ci sono le aragoste scritte in francese e uno dice: ma lì dov'è lo spam? Perché dice lobster thermidor, il francese non lo so leggere, però alla fine finisce guarnite con truffle paté. Il truffle paté è lo spam. Lo spam, certo, immagino, certo. Sono scritto in francese. Lobster thermidor o crevette with mornay sauce garnished with truffle. Vabbè, vabbè, c'è bisogno che dimostriamo quanto siamo ignoranti. Andiamo, esatto. Andiamo avanti, insomma. No, andiamo avanti, abbiamo finito. Abbiamo finito. Sì, vabbè, dai, ragazzi, questo è stato tipo un tuffo così, ma io immagino che uno riascoltando la puntata che uscirà poi domani, insomma, intorno alle 14 sul nostro Spreaker e quindi ovviamente su tutti quanti gli aggregatori. Magari riascoltandola, sai quante volte, quante idee vi possono rivenire fuori, quanti prodotti che magari avete, che vi verranno in mente. Magari scrivetecelo poi nei commenti anche su Facebook oppure qua direttamente sulla chat. Non ha senso fare una chat specifica per quando eravamo futuro, quindi se vi capita, insomma, scrivetelo, scrivetecelo anche privatamente, così magari nella prossima puntata torniamo poi a parlarne. Quindi prima di salutare tutti quanti coloro che ci hanno ascoltato, insomma, speriamo che questa puntata vi abbia fatto fare un po' un cammino verso il motivo per cui ci consideriamo dei sopravvissuti, che è sempre una cosa che è carina da ricordare, ma soprattutto insomma è sempre un modo di stare insieme, anche spezzare un pochino, magari cercare di intrattenerci un pochino fra di noi, mentre vedo che continuate a scrivere, poi vi seguo. Vi ricordo che domani mattina dalle 7 alle 8 torniamo live la mattina con il Mattino Loro in podcast con Leo Varghion, che ci farà insomma una recensione di un qualcosa, adesso non ricordo, e sabato mattina ci saremo io e Michela dalle 8:30 alle 9:30. Domani sera, molto probabilmente alle 23, ci sarà una puntata extra che non era prevista di Runtime by Night, quindi insomma se volete partecipare, poi insomma ci sarà un ospite direttamente qua in studio, un altro amico di Runtime che insomma ogni tanto ci viene a trovare. Detto questo, io ringrazio e saluto Davide Gatti, eccomi qua. Survival Hugging. Sì, scusate, mi ero distratto. Avrete sentito anche un rumore strano, magari. No, basta smetti di fare rumori strani. Che no. Non vogliamo sapere. Mi è partito un audio e mi ha spaccato le cuffie. Direi che abbiamo dimostrato di essere sopravvissuti, di essere abbastanza, insomma, sì, io ho pochi capelli, sono obeso, ho le tette, mi cago addosso, insomma, c'ho un po' di difetti, ma comunque vabbè, però siamo sopravvissuti, dai. Sì, esatto, non sappiamo più come ci chiamiamo, ma tutto il resto insomma va assolutamente bene. Però comunque ricordiamo Survival Hugging, il canale YouTube, che oramai è arrivato quasi tra un pochino, un po' di fatica ancora, però sta arrivando quasi a 10.000 iscritti, quindi grande successo del quale ci riteniamo tutti orgogliosi, siamo tutti un po' genitori di questa cosa, tutti un po' orgoglioni. E quindi andate su Survival Hugging, iscrivetevi, attivate la campanella, guardatevi i video, mettete like, ma soprattutto condivideteli. E la stessa cosa dovete fare con Archeologia Informatica, che domani mattina alle 6 esce il nuovo podcast, l'intervista al creatore di MC Microcomputer, quindi la storia dell'editoria informatica italiana, e poi questo verrà riprodotto anche sul canale YouTube, perché chiaramente ci faremo un video, così come proprio veramente questa volta è vero, imminentemente sta per uscire questo famoso documentario del Museo di Avezzano Elettroludica, che purtroppo insomma abbiamo ritardato per tante ragioni che si sono accumulati uno appresso all'altro, tra i quali ovviamente anche un po' un momento di scoramento. L'attesa ne varrà la pena. Sì, abbiamo fatto un bel anche, lavoro, ricordiamolo, anche se è prematuro, ma lo ricordiamo lo stesso, proprio domani sera andremo a registrare un nuovo video in una location super super esclusiva. Quindi insomma nelle prossime settimane ci sarà materiale, questo servirà insomma per farvi tutti quanti contenti. Quindi vi ringrazio, vi ricordo che se vi capita ragazzi, insomma senza impegno come al solito, andando su www.rantimeradio.it c'è il pulsante anche io, potete fare una donazione singola oppure una donazione ricorrente tramite PayPal, tramite Patreon ovviamente, e così insomma noi vi saremo grati, perché chiaramente stiamo riorganizzando, costruendo, facendo, e quindi le spese ci saranno sempre, le sosteniamo sempre con grande soddisfazione per voi, insomma facciamo questo ed altro, però insomma se volete contribuire, dare una mano, noi non ci fa assolutamente schifo. Detto questo ragazzi, buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti.